Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Dire che lo sciopero proclamato dall'Associazione Calciatori per l'11 e 12 dicembre fa discutere, è un eufemismo. In realtà la decisione del sindacato è stata sepolta da una valanga di critiche, quando non di insulti. Io suggerirei di provare a capire le ragioni degli uni e degli altri alla maniera del Sole 24 Ore, nella interpretazione di Marco Bellinazzo. Bentornato Marco. Buongiorno. Ci sarà spazio poi evidentemente per il turno di stasera di Europa League, per la partita in casa della Sampdoria e soprattutto col PSV Eindhoven, ma soprattutto per la trasferta della Juventus a Poznan, che ha insomma, che ha la complicazione non indifferente del gelo e la suggestione tristissima della località in cui trova la morte Gaetano Scirea e che Del Neri ha meritoriamente ricordato. Però, dicevo, ci sarà spazio più avanti. Marco, io comincerei da, anche se siamo alla lana caprina, insomma, mi piacerebbe prima distinguere la proprietà del termine sciopero, cioè partire da lì, perché ho letto che tra i tanti pareri che sono piovuti sull'argomento c'è anche quello di chi ha fatto sindacato per tanti anni e dice chiamiamola prestazione differita, chiamiamola sospensiva, chiamiamola come vi pare, ma non chiamiamolo sciopero perché è un termine improprio. Beh, i lavoratori dipendenti, i calciatori sono lavoratori dipendenti, fanno sciopero, possono essere dei dipendenti milionari pagati molto, ma il reddito non incide sui diritti e sulla possibilità di esercitare lo sciopero. È un diritto anche di lavoratori, come dire, privilegiati. Sì. Quindi sgombriamo il campo dalla demagogia. Ci sta, è come l'uso della parola sciopero. Assolutamente. Il discorso, Gigi, è che 2 mesi fa, quando questo sciopero già proclamato una volta è stato sospeso, sì, in vista di una trattativa che doveva durare poche settimane, che invece, come abbiamo visto, si è prolungata per i 2 mesi fino al 30 novembre, senza approdare a un risultato positivo, diciamo in pochi, me compreso, avrebbero immaginato che si arrivasse poi a una nuova proclamazione dello sciopero. L'accordo sembrava molto vicino all'epoca, e se andiamo a guardare il contenuto ufficiale della trattativa, l'accordo è a un passo, perché su 8 punti, su famigerati ormai 8 punti, si è trovato, come dire, una chiara posizione di entrambe le parti. Su 6 punti addirittura l'Associazione Italiana dei Calciatori si è detta disposta ad accettare la piattaforma della Lega, gli altri 2 li ha dichiarati irricevibili, e magari poi dopo ne parleremo. Sì, in dettaglio, certo. Di fatto però nelle ultime settimane sono accaduti una serie di fatti, di sintomi di un muro contro muro ormai inevitabile, e appunto nelle ultime settimane anch'io avrei scommesso molto sulla inevitabilità di questo sciopero. Mi viene in mente per esempio la nascita improvvisa di un nuovo sindacato alternativo. Mm-hmm. Il tentativo di arruolare Oddo da parte della Lega per sposare le ragioni della Lega. Mi viene in mente soprattutto il nuovo contratto di Chiellini, sì, il rinnovo contrattuale che è stato presentato di fatto come il simbolo della modernità delle proposte della Lega. E allora si è arrivati a questo sciopero che o alla proclamazione di sciopero per l'11 e il 12 dicembre. Secondo me bisogna fare un passo indietro e cercare di capire quali sono le ragioni sia della Lega sia dell'Associazione Italiana dei Calciatori. È proprio questo il metodo con cui mi sembra corretto procedere, fermo restando che proprio pochi minuti fa il Presidente federale Abete si è dichiarato ancora fiducioso. Siamo molto concentrati, ha detto, per evitare questo sciopero. Lo sciopero al momento c'è, ma noi contiamo di trovare ancora margini di rientro. Allora, il perché e il per come. Tu hai parlato di 6 punti che lasciamo perdere perché sono acquisiti, e di 2 in particolare su cui invece ancora sì. Poi hai descritto anche uno scenario. È indubbio che in questo scenario, e poi ci arriveremo, perché il contratto Chiellini, per esempio, ha causato anche, mi è sembrato almeno, una mezza gaffa del vicepresidente dell'associazione calciatori, che prima lo ha bocciato come inammissibile, poi invece, pur evidentemente non condividendolo nella forma e tantomeno nella sostanza, però ha dovuto ammettere che invece questo contratto era regolare. Insomma, beh, vedi, io penso che le società abbiano un'esigenza fondamentale a questo punto, quella di ridurre i costi. Non possono tagliare gli stipendi, non possono congelarli come avviene per certi governi con i dipendenti pubblici, devono trovare altre strade. Sì. Il punto centrale è quello di rendere gli ingaggi più flessibili, ed è uno dei temi centrali su cui tra l'altro il sindacato si è detto d'accordo, ma più in generale è quello di rendere i calciatori meno autonomi, meno potenti, calciatori e i loro procuratori. Quindi si sta cercando con una serie di innovazioni, alcune condivisibili, altre meno, di arrivare a una situazione in cui le società hanno un maggior grado di autonomia e un maggior potere nel decidere quanto prezioso è il contributo di un calciatore, quindi quanto debba essere pagato. E qui arriviamo ai due punti su cui, diciamo, c'è stata la rottura, quello dei fuori rosa e quello dei trasferimenti obbligatori, in particolare quest'ultimo. La Lega ritiene che siano indispensabili questi passi avanti nel contratto collettivo per adeguare anche queste norme a ciò che avviene nel resto d'Europa e per rendere, come dicevo, meno ingabbiato e meno garantito il contratto dei calciatori. Per l'Associazione Italiana dei Calciatori queste soluzioni farebbero semplicemente da sfondo a una situazione di mobbing, e citano il caso Pandev Lotito. Non a caso Lotito sta guidando il fronte della Lega, è il falco della Lega. Allora, io ti interrompo brevemente per gli aggiornamenti delle strade e poi leggiamo testualmente questi due nomi per aiutare a capire le strade. Riassumo i punti di scontro. Fuori rosa: per la Lega un allenatore può dividere la squadra in più gruppi distinti da fare allenare. Per l'associazione calciatori, i calciatori devono invece essere sempre preparati tutti insieme senza discriminazioni, che, detta così, è un pochino ridicola, perché le grandi squadre ormai hanno almeno 5-6 gruppi di lavoro contemporaneo, ma è chiaro che l'AIC non vuol fare passare il principio che apra la strada al mobbing, se non la capisco male. Secondo, i trasferimenti. Per la Lega un giocatore non può rifiutare il passaggio a un club dello stesso livello e che gli garantisca identico trattamento economico, e in caso di rifiuto il contratto è rescisso. L'AIC su questo non ci vuole sentire. Adesso si parla appunto di ulteriori mediazioni alta corte di giustizia del CONI, però tu ricordavi all'inizio che questa vicenda è partita il 30 luglio e poi al 10 settembre fu proclamato già uno sciopero per il 25 e 26. Se non sono bastati 3 mesi, vabbè che stiamo in Italia, per l'amor di Dio, ma adesso com'è che in 3 giorni o in 6 si può riuscire a? Beh, oggi l'alta corte di giustizia del CONI convocherà le parti che si vedranno separatamente, quindi Lega e l'AEC. L'AEC ha detto che andrà per pura cortesia e questo ha fatto arrabbiare ulteriormente Petrucci. Fatto sta che, sentite le parti, l'alta corte di giustizia dovrà sostanzialmente decidere l'eventuale nomina di un commissario ad acta, cioè di una persona che entrerà nella Lega e che, non si sa bene, non si capisce ancora con quali poteri, dovrebbe sostituire i responsabili della Lega che si stanno occupando della trattativa e della riscrittura del contratto e procedere nella scrittura di questo contratto. La Lega ovviamente ha già fatto sapere che, qualora venisse nominato un commissario ad acta che non abbia soltanto il ruolo di mediatore ma che voglia appunto sostituire, come in realtà sarebbe logico, la Lega si rivolgerà al TAR per l'indebita ingerenza della federazione, come vedi altre carte bollate e confusione che si prepara. Io tornerei invece sul vero punto a mio avviso importante della questione, cioè quella dei trasferimenti obbligatori, perché sui fuori rosa, sulla possibilità di allenamenti separati, abbiamo già detto, è uno strumento, è inutile essere ipocriti, che di solito le società usano per come dire, mettere in difficoltà i giocatori che non sono più graditi, e questo aprirebbe un precedente pericoloso. La questione centrale invece è quella del trasferimento dei giocatori che sono in scadenza di contratto, il caso Batista per la Roma, tanto per citarne uno, abbiamo già parlato del caso Pandev della Lazio dello scorso anno. Qui si scontra il diritto civile, il diritto personale del giocatore che ha firmato un contratto e quindi dovrebbe essere garantito fino alla scadenza naturale di questo contratto, certo, e il diritto patrimoniale, chiamiamolo così, della società di sfruttare, di valorizzare questo asset. Che accade oggi? Che un giocatore al quale manca un anno di contratto, il giocatore che diciamo, è nelle condizioni di poter forzare la mano e chiedere alla società un rinnovo del contratto con un ingaggio superiore, anche se ha intenzioni di andarsene, perché qualora si arrivasse alla scadenza naturale del contratto, il giocatore potrebbe accasarsi dove vuole e la società non potrebbe quindi venderlo e perderebbe un importante asset. È quello che è accaduto con Pande. Le società non vogliono che si arrivi a questo e quindi dicono: il giocatore che è in scadenza di contratto, a cui manca un anno quindi perché il contratto finisca, deve accettare il trasferimento qualora la società A si metta d'accordo con una società B che garantisce uno stipendio adeguato e anche, diciamo, analoghe opportunità sportive, cioè se le due squadre per esempio giocano entrambe in Champions League, il giocatore non può rifiutare, salvo arrivare a una rescissione del contratto. È evidente. Due esempi soltanto, solo per illustrare, che stamattina ricorda, secondo me opportunamente, Sconcerti su Corriere della Sera. Non sono casi estremi, lui scrive. Pochi mesi fa è toccato a Ibrahimovic e un anno fa era toccato a Eto'o. Quindi non stiamo parlando. Allora, è vero che i calciatori, la EC, dice di battersi per i più deboli. Però è anche vero che certi casi limite toccano anche ai grandi campioni. Da qui probabilmente il fatto che, salvo questa piccolissima costola che fa capo a Buffon, Adoni, eccetera, che si è staccata, da qui mi pare che ci sia ancora compattezza tra i calciatori. Sì, abbiamo tra l'altro iniziato parlando dell'opportunità di chiamare sciopero questa astensione, e ti ho detto che appunto che a mio avviso lo è, perché si tratta di lavoratori dipendenti. E appunto pensiamo a un lavoratore dipendente che sia, come dire, costretto a spostarsi, a lavorare in un altro posto senza o contro la sua volontà. Oggi può esserlo con determinate garanzie, forse si dovrà lavorare su quello per trovare un accordo, cioè stabilire un principio per cui effettivamente la società può vendere il giocatore, quindi non essere sotto ricatto, ma allo stesso tempo bisogna trovare delle garanzie per il calciatore che accetta questo tipo di trasferimento, per far sì che non diventi un sopruso da parte del datore di lavoro. Evidentemente però diciamo il muro contro muro che si è creato nelle ultime settimane con tutti gli episodi che citavo prima ha fatto sì che questo compromesso per il momento non si vuole trovare, perché a questo punto sono in gioco il diritto di esistere del sindacato e il diritto della nuova Lega, della nuova Confindustria del calcio, di gestire in maniera sana e patrimoniale, e dal punto di vista patrimoniale e finanziario, questo le società è. Un caso limite che qualche ascoltatore che ci sta seguendo, direi del numero di messaggi con discreto interesse, prospetta. Gioca la primavera, e cioè le società si accordano e allo sciopero rispondono con la serrata, se vogliamo, no? Grosso modo mutuare il linguaggio davvero, risponde con la serrata, per cui la giornata di campionato va regolarmente in scena con le formazioni in primavera. Ora, c'è una prima complicazione sicura da cui sgombriamo: la primavera gioca il suo campionato quel sabato e quindi evidentemente credo che sia prevista una giornata e potrebbe esserci un problema di calendario. Ma supponiamo che invece che tipo di sviluppo darebbe? Beh, è una bella provocazione. Pensiamo ai casi in cui un'azienda, come dire, subisca uno sciopero, un'astensione dal lavoro dei propri dipendenti, e con altri dipendenti, che di solito si chiamano curmiri, possa, come dire, arrivare a realizzare comunque i prodotti e il fatturato, insomma. E dal punto di vista sindacale sarebbe una bella grana ulteriore, evidentemente. Ti senti di escluderla come già hai sviluppo? Direi di sì. Direi di sì. Curiosamente pare che quella domenica comunque ci sia in previsione una sosta, quel sabato, una pausa per il campionato primavera. E quindi... allora penso che ci abbiano già pensato a questo punto i presidenti, insomma, quindi ritratto quello che ho appena detto. No, però si potrebbe anche arrivare allora a questa soluzione, anche se davvero mi sembra esagerata e sicuramente tale da insomma, infuocare poi ulteriormente gli animi, non mi sembra. No, è anche vero che la data dello sciopero non ha scelto i presidenti, ha scelto i calciatori, quindi che eventualmente potevano essere corrente di questo, ma evidentemente non ci pensano. È vero anche che tra i calciatori c'è già chi pensa subito a un raddoppio dello sciopero anche la settimana successiva, certo, qualora non si arrivasse a un accordo. Questo è un altro scenario possibile. In ogni caso, per il campionato primavera la sosta invernale comincia esattamente quel fine settimana, quello del 9, 10, 12 dicembre. Beh, quindi, mettiamola così, si dice in Italia che non si valorizzano i giovani, sarebbe un modo per valorizzarli. Io ti proporrei da qui in avanti, poi ci sarà anche qualche altro argomento evidentemente, ma di far intervenire su questa questione anche qualche ascoltatore, pregandolo evidentemente di essere sintetico. Giuseppe Padova, buongiorno. Buongiorno Garanzini, veramente un piacere sentirla. Grazie. Io volevo solo fare questa piccola osservazione. Sono un lavoratore dipendente. Se sciopero durante la mia carriera, la mia prestazione per il mio datore di lavoro, le mie 8 ore non me le rende nessuno. Questo definisce sciopero. Se la mia è un'astensione dal lavoro, che differisco, che cioè recupero senza nessun danno economico per me, non è uno sciopero. Perché lo sciopero è un qualcosa che nel togliere, come dire nella tradizione classica, al padrone un'utilità di produzione, ha comunque la dignità che anche chi opera lo sciopero provoca a se stesso un danno economico perché è parte di un'azienda. Per cui attenzione a dire che questo è uno sciopero a tutti gli effetti. Chi lo pratica non perde una lira. Giuseppe, grazie. Questo non è affatto scontato, è un'osservazione assolutamente utile al nostro discorso, ma i presidenti sicuramente poi come dire, decurteranno gli ingaggi mensili dei calciatori quando vengono pagati, perché sappiamo che spesso in questa fase non vengono neanche pagati, ma c'è un'assenza di prestazione resa dagli atleti e quindi le società si muoveranno di conseguenza. Ricordiamo che c'è stato un solo sciopero dei calciatori nel 96 dopo la sentenza Sbonna, quindi è una situazione inedita per il calcio italiano e si sta come dire, ci si sta muovendo un po' al buio, ma sarà una ritorsione immediata dei presidenti, immagino, quella di tagliare gli stipendi. Penso proprio di sì. Tu dicevi di buio, in queste occasioni si scatena la fantasia dei nostri ascoltatori, che personalmente mi colpisce sempre, ma in parecchi casi in positivo. Senti questo, lo fece Enzo Ferrari negli anni 60, i giocatori non potevano giocare con divise senza sponsor, danno a Lega e TV e società, ma senza fare figuracce con il pubblico. Ora, io non dico che questa sia la soluzione, per carità, però... mi piace, forse potrebbe essere utile che in questi incontri, in questi faccia a faccia, aprissero i microfoni e gli dirottassimo i nostri ascoltatori, perché questa tutto sommato non è male come... Assolutamente no, per fortuna appunto stiamo parlando di calcio mentre ci sono vicende molto più gravi nel paese, insomma, e quindi per fortuna possiamo affrontare il tema con una certa leggerezza. In ogni caso è una proposta e forse ci farebbero migliori figure anche i calciatori, anche perché nell'immagine della Serie A italiana viene in ogni caso sporcata da questa vicenda, a mio avviso, perché appunto in una situazione di difficoltà economica generalizzata arrivare a uno sciopero rende in ogni caso la trattativa incomprensibile ai tanti che hanno ben altre difficoltà economiche, rischia come detto di sporcare l'immagine del calcio italiano e non ce n'è bisogno. Giustamente, e questo è il senso della maggior parte dei messaggi, questi non li leggo perché davvero rappresentano l'80% di quelli che arrivano, sia pure declinati in vario modo. Qualche minuto di pazienza per Damiano, che è già in linea per intervenire con noi, poi abbiamo parecchi altri argomenti, subito dopo i mercati. Allora, la precedenza, un ascoltatore da Reggio Emilia che è collegato da un po'. Damiano, dica, buongiorno. Buon pomeriggio, salve Garanzini. Tre punti velocissimi sul discorso dello sciopero. Mi fa sorridere, anzi forse mi fa un po' intristire quando sento parlare dei privilegiati di sciopero, nel senso che scriveva oggi la Gazzetta dello Sport in fondo in una pagina di Vario, disoccupati record mai così tanti da 6 anni. E stiamo parlando, non dimentichiamoci, appunto, di una categoria di privilegiati. Infatti tant'è che a scioperare non sono i calciatori di Lega Pro, dove ci sono stipendi in ritardo da secoli, ma calciatori di Serie A, quindi persone molto tutelate. La seconda cosa, si legge sempre sulla Gazzetta, il sindacato ha paura del mobbing. Qualche volta bisognerebbe che il sindacato intervenisse anche quando sono i calciatori stessi a fare mobbing alle società. Mi viene a pensare al Ibrahimovic che punta i piedi e va via, al Burdisso che dice io non voglio andare in nessun'altra squadra che la Roma, eccetera. E la terza cosa riguarda la battuta provocazione sul far giocare in primavera. Sì, se questo è il modo giusto per lanciare i giovani, facciamo giocare in primavera. Grazie mille, buon pomeriggio. Grazie a lei, Damiano. Dicevamo con Marco Bellinazzo che probabilmente questo contratto, non dico rivoluzionario, ma un contratto discretamente pilota che Chiellini ha firmato la settimana scorsa con la Juventus e che era stato prima contestato all'AIC e poi invece questa contestazione anche un po' plateale rientrata, certamente non ha contribuito a sverenire il clima. Dal sindacato è stata considerata una vera e propria provocazione, anche perché ha contenuti tali questo contratto, contenuti conformi alle proposte della Lega in tema di flessibilità dell'ingaggio, di giro di vite, diciamo, sul comportamento fuori dal campo dei calciatori, di gestione più attenta e più penetrante della società sulla vita del calciatore, la vita professionale extracalcistica, che lo ha fatto considerare dall'AEC una sorta di appunto benchmark per i prossimi contratti, cioè di contratto al quale si guarderà per esempio nella prossima finestra di calciomercato se non sarà trovato un accordo collettivo diverso. E peraltro bisogna ricordare che all'eventuale nuovo contratto collettivo bisognerà poi adeguare tutti i contratti già stipulati nello scorso calciomercato, per cui evidentemente molti di questi contratti potrebbero anche trovarsi a non essere in linea con le nuove linee guida. È una complicazione meteorologica in più, sicuro. Certo, il contratto di Chiellini ha fatto discutere perché per esempio tra i punti il senso e consenso preventivo è scritto dalla società, il calciatore non potrà avviare un'altra attività professionale o imprenditoriale, e va bene. Vietato partecipare a attività potenzialmente sconvenienti per un atleta professionista come scommesse, gioco d'azzardo, e va bene. Un'occhiata all'abbigliamento, l'abbigliamento deve essere elegante o elegante casual, mai trasandato o tale da far trasparire preferenze politiche o ideologiche del calciatore. Divieto di pubbliche dichiarazioni senza l'autorizzazione del club, rientra nella giurisdizione i siti web personali, social network da Facebook a Twitter, un contratto pilota per l'appunto su cui si può ampiamente discutere. Fausto ha chiamato da Brescia, buongiorno. Buongiorno signor Carantini. Dica. Devo sapere una cosa, nel caso facessero lo sciopero, sì, poi la giornata va persa o poi la recuperano? Perché se poi le giornate di sciopero diventano 2, 3, 4, la percentuale tra punti e giornate giocate o no, c'è una differenza, insomma. Mi pare che non andrebbe persa, verrà recuperata. Tra l'altro c'è già un problema perché potrebbe essere recuperata il 19 gennaio, ma è il giorno in cui si sarebbe dovuto giocare il derby di Coppa Italia tra Lazio e Roma, e quindi c'è già un problema di affollamento di date per uno sciopero, quindi relativo a una sola giornata. Figurarsi poi se dovesse essere prolungato, evidentemente. ulteriori giornate di complicazione, complicazione ulteriore. Allora, se qualcun altro ha ancora curiosità con lo, sullo sciopero, diciamo che per 4-5 minuti possiamo ancora soddisfare delle richieste. Se no, io credo che si possa passare al capitolo sicurezza e rapporto società tifosi con il caso Juventus-Fiorentina, il caso Napoli. Di stamane c'è il ricordo di un caso Milan. Prego. C'è un problema giuridico, per sintetizzare, che è quello della responsabilità oggettiva, cioè sì, la responsabilità della società per qualsiasi comportamento violento del proprio supporter, in particolare quando si trovano all'interno dello stadio durante una manifestazione sportiva. Le società non hanno la proprietà dello stadio, ma hanno la responsabilità della sicurezza. Questo è il quadro normativo. Di fatto questa responsabilità oggettiva viene utilizzata dai gruppi più violenti o criminali, perché in qualche caso dobbiamo parlare proprio di gruppi criminali, certo, per minacciare la società ed estorcere vari tipi di favori. Appunto stamattina è uscita la notizia della convocazione di Galliani, del Milan, testimone per una denuncia da lui stesso presentato, peraltro, proprio per un tentativo di estorsione legato alla partita, alla finale di Atene del 2007. Sì. Tra l'altro ricordiamo che Galliani è sotto scorta da qualche anno proprio per le minacce subite, e i reati ipotizzati per sette ultra rossoneri sono molto importanti. Insomma, si parla di associazione per delinquere finalizzata alla tentata estorsione, minacce, violenza e quanto di peggio si possa pensare in questi casi. Un'ipotesi, tra l'altro, questi nei precedenti mesi, insomma, rispetto alla finale di maggio del 2007, questi tifosi avevano anche lanciato in campo torce, petardi, insomma, durante alcune partite del Milan, proprio per, come atti intimidatori, per ottenere questi biglietti dalle società. Entrambi gli elementi ci riportano alle vicende più recenti, insomma, di questi giorni, cioè il lancio di oggetti, di petardi da parte dei tifosi della Juve ai danni dei tifosi della Fiorentina. Ci sono stati due feriti abbastanza gravi. Sì. Tra l'altro c'è stata una sanzione di appena 40.000 euro ai danni della Juve. Con la difesa al campo, però, insomma. Però, insomma, ha già scatenato le proteste della Fiorentina. È un periodo di diffide lievi, ti interrompo su un istante, poi ne parleremo all'ultima parte, sia da questo punto di vista che anche dal punto di vista delle sanzioni ai giocatori, e parlo di Spagna, ma questo dopo. E tra l'altro, appunto, c'è stato un episodio molto grave, che non il primo purtroppo, a Napoli lo scorso venerdì, in occasione della messa in vendita dei biglietti per Utrecht-Napoli, che si gioca domani. 1200 biglietti, c'erano in fila molte più supporter dalla mattina presto, e un gruppo di ultras, non so come chiamarli altrimenti, si sono presentati invece davanti ai cancelli, hanno scavalcato le file, hanno creato tafferugli e hanno acquistato gruppi di biglietti, sostanzialmente esaurendoli in pochi minuti. Tra l'altro c'era un obbligo di acquisto di un solo biglietto con carta d'identità, quindi non si capisce come siano stati acquistati, ma ripeto, non è il primo episodio. La società del Napoli, con il direttore generale Fassone, si è scusata, tra l'altro ha messo a disposizione 25 steward, ma tra l'altro gli steward fuori dall'impianto non hanno alcun potere, e intanto il Ministero dell'Interno dovrà chiarire quali sono i poteri invece all'interno dell'impianto, certo, con il nuovo pacchetto sicurezza. Era presente anche un drappello di polizia, che però non è intervenuta, probabilmente per evitare ulteriori disordini. In ogni caso è un ennesimo episodio che mette le società nelle condizioni di essere vittima di questi facinorosi, e che impone, a mio avviso, al di là delle dispute sul contratto collettivo di cui abbiamo parlato finora, un intervento più ampio, più incisivo, proprio per cercare di tutelare le società, che molto spesso in passato sono stati conniventi con questi gruppi, ma oggi sono molto più spesso vittime. Certo. C'è una dichiarazione di Adriano Galliani che si dice rammaricato dalla decisione dei calciatori di proclamare la giornata di sciopero, ma non ritiene che le società debbano rispondere con una mossa altrettanto forte come quella, da qualche parte ipotizzata, di mandare in campo l'11 dicembre le formazioni primavera. Insomma, credo che a questo non si arriverà. Tra poco cambiamo completamente capitolo e riparliamo di calcio. D'altra parte, ieri ci eravamo sfogati a celebrare le meraviglie del Barça, e oggi invece è stata una puntata di attualità di segno diverso, di cui ringrazio in modo particolare Marco Bellinazzi. Grazie a voi, a presto. Noi facciamo l'ultimo intervallo per sentire come va sulle strade. L'appuntamento con la data, mercoledì 1 dicembre evidentemente, nella interpretazione di Nicola Filippone. Sembra ieri. 1 dicembre 1991. A Lione, Guy Forget batte in 4-7 Pete Sampras, regalando alla Francia, capitanata da Yannick Noah, il punto decisivo per sconfiggere gli Stati Uniti nella finale di Coppa Davis. Per il tennis transalpino è un successo epocale. L'ultima Davis vinta risaliva al 1932. La Francia conquisterà ancora il trofeo nel 96 e nel 2001. Quest'anno, capitanata proprio da Forget, sfida in finale la Serbia, all'occasione di ottenere il titolo per la decima volta. Una mail estratta dalla tonnellata ricevuta dopo Barcellona-Real Madrid. È firmata Simone, arriva da Treviso, e leggo questo paragrafo. Ciò che vorrei rimarcare è l'apparente antitesi tra la prevedibilità del gioco del Barcellona e lo stupore che ci pervade ogni volta che lo vediamo esibirsi. Tutti conosciamo il loro gioco, tutti sappiamo che il Barça ci costringe ogni tanto ad alzarci in piedi e applaudire, ma tutti restiamo sempre incantati quando avviene, come se fosse la prima volta, come se ogni volta accadesse una magia nuova. È una sensazione che ci sta e che è molto ben raccontata. La magia della normalità, ha titolato questo ascoltatore la sua mail. Vi dicevo di questa vigilia, di una serata tra gelo e ricordi tristissimi, che così ha ricordato, a proposito di Lech Poznań Juventus, così ha ricordato Del Neri. La Juventus è la prima volta che torna in Polonia dopo che Scirea se n'è andato prima del previsto. Devo dire che cercheremo in tutti i modi noi di onorare anche questo fatto, quindi con una prestazione importante, cercare di onorare questo grande campione, questo grande uomo che ha lasciato veramente un ricordo importante nel mondo del calcio nella vita. La vigilia invece di Sampdoria PSV Eindhoven, attraverso le voci dell'allenatore Di Carlo e di Pazzini. Provare a continuare a far meglio di quello che abbiamo fatto fino ad oggi e sfruttare soprattutto la vena di Giampaolo, del pazzo, perché in questo modo qui è lui che ci dice di attaccare un pochino di più, perché la palla la mette dentro. Io ho molta voglia d'Europa, perché comunque le partite di Coppa hanno un grande fascino. Vogliamo diventare una squadra importante e per essere una squadra importante devi essere in Europa. Beh, poi ci sono le cose che sono successe ieri da un punto di vista disciplinare, e cioè c'è stata per esempio una sentenza pilota da parte dell'UEFA, che ha scelto di non punire i calciatori che si sono autoespulsi con una vergognosa sceneggiata di cui abbiamo parlato a lungo la scorsa settimana in Ajax Real Madrid, e che sono Sergio Ramos e Xabi Alonso. E poi c'è stata invece una, a parer mio, vergognosa sentenza del giudice sportivo spagnolo, che ha inflitto soltanto una giornata a Sergio Ramos per gli interventi dell'altra sera in campo. Sergio Ramos alla fine aveva palesemente perso la testa, era già ammonito per un brutto fallo su Viglia. Dopo il gol dello 0-5 ha scalciato da dietro, ma in maniera pericolosa, Messi, e alle rimostranze, peraltro corrette, degli avversari, ha messo una mano in faccia a Puyol. Se il tariffario di tutto questo è una giornata, beh, non siamo combinati benissimo nemmeno in Spagna dal punto di vista sanzionatorio, ma dal punto di vista della tutela dei campioni, no? Rispetto alle mattane di quello che è un campione del mondo, ma che insomma diciamo che tra tutti i campioni del mondo è quello più fragile da un punto di vista del sistema nervoso. Abbiamo parlato così a lungo di sciopero oggi che tanto vorrebbe sentire forse una voce fuori dal coro, che si è posta recentemente fuori dal coro per libera scelta, e cioè uno dei rappresentanti del nuovo sindacato, a proposito di questa proclamazione, Cristiano Doni. Mi spiace che siamo arrivati a questo punto, perché lo sciopero non penso fosse necessario, e sicuramente è una dimostrazione di fallimento per tutti. Spero che ci sia il tempo per cambiare la situazione, perché veramente facciamo una figuraccia a tutti, ecco quello mi sento di dire. Non è giusto anche che noi calciatori passiamo sempre per quelli che poi alla fine non sono, ecco, mi dispiace. Diciamo che questo è il sindacato alternativo che per il momento è, come dire, così, rappresentato in maniera non particolarmente significativa. Invece, tanto vale capire, dopo tutte le spiegazioni che ci ha dato Marco Bellinazzo, capire perché la IC sia arrivata a una mossa così impopolare, perché questo mi pare lo si possa dire. E allora sentiamo sulla questione dei fuori rosa in particolare che cosa ha dichiarato il vicepresidente dell'associazione calciatori Grosso. È pacifico che in tutte le squadre di Serie A, che hanno rosa di 30-35 giocatori, già ci si allena per gruppi, si fanno lavori differenziati, eccetera. Però si lavora tutti insieme, la prima squadra lavora insieme. Storicamente gli allenamenti separati sono sempre serviti per obbligare i calciatori ad accettare un trasferimento, accettare un prolungamento di contratto in funzione di una vendita, insomma questo è un fatto storico acclarato. Oltretutto la regola si limita a dire che il calciatore professionista tesserato per una società ha diritto di allenarsi con la prima squadra, che mi sembra anche solo normale. Le società, qualche società vorrebbe poterli emarginare in modo da costringerli ad accettare determinate situazioni. Io penso che la Lega, mi auguro che la Lega ci ripensi, anche perché sugli altri punti non ci sono cose, abbiamo già fatto delle concessioni, non ci sono distanze abissali. Questo è un punto che da sempre sappiamo che è il punto nodale e su questo evidentemente i giocatori non intendono retrocedere. E questo era Leo Grosso, vicepresidente dell'Associazione Italiana Calciatori e tra l'altro presidente del Sindacato Mondiale dei Calciatori. Un altro dato che ha fatto discretamente sensazione è che è il nuovo record che le pay TV hanno registrato sia in Italia che in Spagna per quella meraviglia che è stato Barça Real dell'altra sera. Pensate che in Italia Sky ha raccolto davanti alla TV 1.317.595 spettatori per il 4,2% di share, che è il nuovo record per una partita straniera, ma è un nuovo record che doppia il precedente record, nel senso che il record era detenuto 29 dicembre 2009, perché poi in Spagna anche sulle date non hanno sta enorme fantasia, che era il giorno di Barça Real dello scorso anno, 711.000, da 711 a 1317 è abbastanza sbalorditivo. In Spagna, ovviamente per interesse diretto, sono andati molto oltre e l'encuentro Football Club Barcelona-Real Madrid disputato ieri lunes eccetera si è convertito in un evento futbolistico más visto en la historia, il più visto nella storia de nuestra televisión pago por visión, cioè della nostra televisione pay per view. 13.6 di share e 2.500.000 spettatori davanti a una Pay TV. È evidente che tutto è un tantino cambiato. Mourinho piove sul bagnato in questo momento, rischia una sanzione, agenzia appena uscita, anche per la lite con Preciado, cioè con l'allenatore dello Sporting di Gijón delle settimane scorse. Non sono giorni molto favorevoli per lui, però chi ha buona memoria ricorda lo scorso anno, probabilmente sa che questi sono proprio i giorni in cui poi Mourinho trova l'ispirazione e la carica per tornare alla ribalta. Credo che il miglior omaggio, uno dei migliori omaggi in assoluto, perlomeno in Italia, alla meraviglia blaugrana dell'altra sera sia stato una dichiarazione di Achille Bonito Oliva, celeberrimo critico d'arte, che ha detto, che è anche un appassionato di calcio, e che ha dichiarato: questo Barcellona è davvero come un'opera di Picasso perché ha le sue caratteristiche. Potremmo chiudere qui con Roberto Scatriti in regia, con Franco Piantanida in redazione. Domani, salvo sorprese di attualità, torniamo non tanto sul Barcellona, ma torniamo sul come si fa a diventare così bravi a giocare a pallone crescendo nel giovanile, e ce lo facciamo spiegare da qualcuno che se ne intenda. Buon pomeriggio.